canzone dolce in fondo al cuore quando penso a Maria. Sento una canzone d'amore quando penso a Maria. Alzo il mio bicchiere rosso e brindo a te, sento che la mente mia si accende. Questa notte il vento porterà con sé la mia canzone per Maria. Sento una canzone dolce in fondo al cuore quando penso a Rosa. Sento una canzone d'amore quando penso a Rosa. Alzo il mio bicchiere rosso e brindo a te, sento che la mente mia si accende. Questa notte il vento porterà con sé la mia canzone per Rosa. Quanti volti, quanti volti ha l'amore, l'amore. Quando penso a Maria, sento una canzone d'amore, quando penso a Rosa, alzo il mio bicchiere rosso e brindo a voi, sento che la mente mia si accende, questa notte il vento porterà con sé la mia canzone per Maria, la mia canzone per Rosa, la mia canzone per Maria, la mia canzone per Rosa. Questa notte il vento porterà